I fantastici viaggi di Sinbad, parte 3. Il mostro con un occhio. Ciao! Ehi, sono Tik. Ciao. Non parli molto, vero? Sì. No. Ehi, Tak. Ti presento... Non che mi abbia detto come si chiama. Sì, lo hai spaventato, Tik. Io non spavento cicogne. Però ho spaventato un uomo sulla nave. Avresti dovuto vedere la sua faccia quando ho strappato quel panino dalle sue mani. Smettila di farlo. Tu sei la ragione per cui non ci nutrono più. Si spaventano facilmente questi umani. Non è colpa mia. Ehi, piccolo amico, come ti chiami? Mi chiamo To. Ciao, To. Questo è Tik e io sono Tak. Dimmi, perché sei così spaventato? Perché non dovrei esserlo? Sei molto più grande di me. Questo è vero, ma qualcuno sarà sempre più grande di te. È naturale, non puoi aver paura di tutti per questo? No. Nessuno è più grande degli umani. Vorrei essere un umano. Oh, affatto. Ci sono creature su strane isole che sono molto, molto più grandi degli umani. Non hai mai sentito parlare del mostro con un occhio? Cosa? Oh, non ti preoccupare, Orato. Ti racconterò una storia sul coraggio. Ti mostrerò come il coraggio conta più che essere grandi o piccoli. Oh, Sinbad, lo so. Questa deve essere una storia di Sinbad. E infatti è la storia di Sinbad. Andiamo. Da mostro? No, al vaso magico. Acqua, acqua limpida e blu. Mostraci tutto ciò che sei tu. Benvenuto, To. Benvenuto a Baghdad. La casa del nostro eroe Sinbad il... Tak, l'ultima volta che ho sentito la storia, Sinbad era un uomo. Lui è un uomo? Aspetta, andiamo un po' a destra. E così è come va fatto. Sì, questo è Sinbad, Sinbad il marinaio. Dopo l'ultimo viaggio, Sinbad si è arricchito. Ha costruito una grande casa per se stesso e ha aiutato molte persone nella sua città natale. Sinbad diventava ogni giorno più famoso. Ehi, Sinbad! Io e gli altri uomini salpiamo per Balsora. Da lì andremo in altri porti per scambiare i nostri prodotti. Vuoi unirti? Oh, sì! Non ho viaggiato per così tanto tempo. Prenderò i migliori prodotti da Baghdad per questo viaggio. Ok, allora, partiremo tra una settimana. Sinbad rimase sulla nave per settimane. Le acque erano più calme che mai. Navigarono in luoghi lontani. Poi una notte ci fu una tempesta. Oh no! Oh no! Mettiamoci in salvo! Mettiamoci in salvo! Dove andiamo? Dove andiamo? Ah! Aiuto! Non lasciarci! Capitano, aspettate! Oh, aiuto! Non lasciarci, capitano! Aspettate! Oh no! Aspettate! Girerò la nave! I venti sono selvaggi! Non posso girare la nave! Aspetta! Lancerò una barca per voi! Prendete questa! I mercanti riuscirono a salire sulla barca nonostante la tempesta. In fretta salirono su di essa, ma le acque portarono le nave in un'altra direzione. Continua a remare, resta vivo! Oh no, moriremo qui! Non abbiamo la barca per morirci dentro. Dove c'è volontà, c'è una soluzione. Dobbiamo continuare a remare fino a che non raggiungeremo un'isola. Remarono giorno e notte? Nella speranza di trovare terra, ma c'era solo acqua dappertutto. Finalmente! Ah! Oh! Svegliatevi tutti! Siamo salvi! È un'isola! Dai! Oh, sì! Questa è un'isola! Ma non essere troppo speranzoso ora! Queste sperdute hanno storie spaventose! Sperdute? Che cosa vuoi dire con questo? Le isole sulle quali non vive nessun essere umano sono isole sperdute, Sinbad. Questo non può essere buono. Shh! Hai sentito? Aspetta, lasciami andare più vicino. Cosa sono queste creature? Levati di dosso, aiuto! Oh, cosa sono queste creature? Aiuto! Oh. Ah, cosa sono queste creature? Toglietemele di dosso, aiuto! Aspetta, dopotutto sono animali e tutti gli animali hanno paura di una cosa. Ah, andate via creature, lasciateci! Oh, grazie a Dio! Dobbiamo scappare di qui in fretta! Aspetta, vedo fumo! Ma chi vivrebbe su quest'isola? No, non dovremmo andare lì! Torniamo indietro! Ma forse ci sono persone lì e forse hanno una grande nave! Questa nostra piccola barca non ci riporterà mai a casa! Se la tempesta ci colpisce, questa barca affonderà! Sono d'accordo! Inoltre, forse qualcuno è intrappolato e sta facendo segnali d'aiuto! Oh! Questo è un palazzo! Oh, ora siamo veramente salvi! Oh, non è così! Io non la penso così! Guarda qui! I poveri mercanti non sapevano che cosa stava per succedere loro! Mucchio di ossa! Quelli devono essere gli uccelli veramente grandi! Non è possibile! Nel mio ultimo viaggio ho visto lanciare un grosso pezzo di carne per un uccello molto grande. Mi dispiace deluderti, ma data la mia esperienza con le isole sperdute, questo è davvero possibile. Questo non è il posto giusto per le chiacchiere. Andiamo via ora! Ah, che cosa sta succedendo? Terremoto? Perché ora? Quanti problemi ci aspettano ancora? Questo non è un terremoto! Che cos'è quella cosa? Io fame! Correte, correte, correte, correte! Non me, per favore! Io cibo! No, no, no, no, no, no cibo, no cibo! No! Ah, io uccido! Ehi, guarda qui! Ho del cibo delizioso! Come può ancora seguirci? Lui non può vedere! Sono sicuro che può sentire i nostri passi sul terreno! Continuate a correre! Ehi, riesco a vedere la nostra barca! Vai, su! Salirono sulla barca e iniziarono a remare. Ma il mostro non aveva ancora finito con loro. Iniziò a lanciare alberi in acqua. Perché non ci lascia in pace ora? Come può ancora vederci? Non siamo sulla terra. Non penso che questo sia il momento per trovare risposte. Oh, eccone un altro! Tieni la barca! No, Sinbad! Giriamo la barca! No, non tornate indietro! Mettetevi in salvo! Andate, andate! Oh, il mostro non mi ha visto cadere nell'acqua! Grazie a Dio! Aspetta, che cos'è quello? È un'altra isola? Oh, non posso credere alla mia fortuna! Sinbad nuotò fino all'isola! Era così stanco che quando raggiunse la riva si addormentò immediatamente! Pensava che i suoi problemi fossero finalmente finiti. Che solletico! Ah! Da dove vengono questi? Ah, ah. Oh! Aspetta, ho un'idea. Sinbad rifletté in fretta e prese alcuni rami dell'albero spinoso. Si coprì con essi. Il serpente arrivò da lui a tutta velocità e, come previsto... Buona grazia! Non ho mai visto un serpente così grande in tutta la mia vita! Accidenti, devo andare via da qui ora. Sinbad costruì una piccola copertura di rami spinosi e vi si sedette per giorni. Non aveva cibo da mangiare e si fece sempre più magro. Ma poi un giorno il fato rispose. Può essere vero? È un sogno? Sto davvero per essere salvato? Ehi, qui! Salvatemi! Sei pazzo? Cosa ti ha fatto fermare in quest'isola? Quest'isola è infestata da... Un grande pitone, e l'altra isola è infestata da scimmie come creature e da un grande mostro con un occhio solo. Oh, ma ora che vedo un altro umano, tutto va bene. Sono Sinbad il marinaio, di Baghdad. Vieni da Baghdad? La tua fortuna è grandiosa, amico mio. Stiamo andando a Balsora. Puoi andare a Baghdad da lì. Vieni, sono sicuro che avrai alcune storie meravigliose da raccontare. Lascia che ti dia qualcosa da mangiare per prima cosa. Sembri uno scheletro. Partiamo presto, prima che lo diventiamo entrambi. Vero. Aspetta, cosa è successo agli altri mercanti? Oh, dopo un po' di navigazione, trovarono una grande nave che li riportò nella loro città natale. Povero Sinbad, ha perso tutti i suoi beni? No, quando Sinbad raggiunse navigando Baghdad a Balsora, incontrò di nuovo il capitano della sua nave. Il capitano fu molto felice di vedere Sinbad. Gli disse di come si sentiva in colpa per aver lasciato indietro i suoi compagni. Il capitano e altri mercanti della nave avevano già venduto i beni di Sinbad. I prodotti di Sinbad erano di grande qualità. I commercianti volevano restituire i soldi alla famiglia di Sinbad. Diede così a Sinbad 20 buste di monete d'oro e d'argento. Sinbad gliene restituì una in segno di ringraziamento. Usò il resto dei soldi per costruire un grande palazzo ed aiutare tutti coloro che ne avevano bisogno. Wow! Questa storia era davvero fantastica! Ancora una! Non ora, piccolo! Teniamo qualcosa per la prossima volta. Lo dici sempre, Tak! Perché hai bisogno di riposare? È il vaso magico che ci mostra tutto! Bene! Quindi il vaso magico ha bisogno di riposo. Andiamo adesso! Sei un bravo narratore, Tak! So di esserlo! Bla bla bla!